Mix 24 di Giovanni Minoli. Come giudica il servizio di pulizia qui di raccolta dei rifiuti nella città? Schifosa. La percezione di mio marito, che è inglese, si è appena trasferito a Roma, è di una città stupenda, eccezionale, ma lasciata in balia di se stessa. Roma doveva essere la cosa più bella che c'è e invece è un casino. Il comune dovrebbe pagare noi, no, che fanno il bietto noi, questo servizio così. È scandaloso perché Roma non è una capitale europea. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo una storia del mondo qui è bloccata dall'immondizia, è bloccata dal degrado. Brucia Roma, brucia Roma. Onorevole Roberto Morassut, candidato alle primarie del PD, ecco, questo è un sentimento un po' diffuso che aspetta una soluzione dalle elezioni per il sindaco. Quanti votanti vi aspettate alle primarie per considerarle un successo? Buongiorno. Buongiorno. Ma non so, fare una stima quantitativa. Più o meno. Ma io penso questo, sotto i 50.000 l'affluenza sarebbe un problema. Un problema. Sì. Sopra. Oltre 50, abbondantemente oltre 50.000, 60.000 potrebbe essere. Potrebbe una, andare bene. Senta, teme brogli? Mi auguro di no. Mi auguro, lo spero, ma chiedo se le teme perché si vota domani. No, temerle non ho motivo per ora di temerle, però... considerate le esperienze passate, considerate le primarie, sono comunque un appuntamento sempre aperto e sempre esposto a rischi, faccio un invito a tutti, a quelli che organizzano le primarie, perché si vigili attentamente. Ecco, no, glielo chiedo perché il ministro, lei l'aveva denunciato il sistema precedente in modo abbastanza violento. Ministro Madia, senta cosa diceva 2 anni fa a proposito del partito a Roma. Io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. È cambiato tutto adesso? Beh, diciamo, ci sono stati dei traumi politici e giudiziari abbastanza pesanti, sì. Però io considero che il PD romano ancora è convalescente, non è del tutto guarito, quindi attenzione, cerchiamo di fare le cose fatte per bene. Senta, lei comunque appoggia il governo Renzi, ma si è candidato contro il candidato di Renzi. Che cosa l'ha spinta a candidarsi? Ma perché la candidatura di Giachetti, persona che rispetto e che a cui voglio bene, però non aveva un perimetro sufficiente per rappresentare tutte le forze e tutti i nostri elettori. E ma che cosa la divide, per essere chiaro e comprensibile? Guardi, cosa la divide da Giachetti? In queste ore mi divide una cosa abbastanza importante, l'appoggio di Verdini. Perché Verdini questa mattina ha detto sì, che lo sosterrà e che sì. Farà anche delle liste a sostegno se lui vincerà. E la domanda che io vorrei fare a Giachetti e ad Orfini, che è il commissario del partito, ma Verdini fa parte della coalizione? E se non fa parte della coalizione, perché viene a votare le primarie? Senta, come assessore all'urbanistica, lei ha già amministrato Roma nella giunta Veltroni, cosa le resta di quell'esperienza? Beh, mi resta il ricordo e la pratica di un'altra epoca, un'altra Roma, un'altra clima e anche un rapporto col governo e con diciamo col governo centrosinistra in una certa fase. Cioè lei si sente che Renzi è un sentimento antiromano in Renzi? No, Renzi non ha un sentimento antiromano, anzi ha fatto molto il governo verso Roma negli ultimi tempi, però sento la necessità che per risollevare Roma ci sia un patto fortissimo con lo Stato e con la Regione, su tutti gli enti che agiscono. Senta, su Roma, ma come assessore lei cosa è fiero di aver fatto? Di aver chiuso una stagione di assenza di regole che durava da 30 anni, il vecchio piano regolatore era una cosa completamente ormai desueta. Quindi si vanta del suo piano regolatore, diciamo? No, considero che sia stato, non è il mio, è il piano regolatore di 10 anni d'accordo. Del centro-sinistra, a cui io ovviamente ho condotto in consiglio comunale. Era l'assessore. È stata una situazione che ha ridato regole, però sono passati 10 anni e quelle regole probabilmente qualche aggiornamento andrà dato. Soprattutto in che direzione? Nella direzione di potenziare i servizi, il trasporto pubblico e le politiche di recupero urbano che in quel piano sono previste ma che non sono state attuate perché Alemanno ha pensato a distruggerlo. Sì, in realtà. Però adesso la guerra, il nemico numero uno a Roma sono i topi. Beh, i topi sono un aspetto di tanti. Sì, tanti, ma quello le assicuro che non fa piacere. No, questo è evidente. Che cosa si fa per combattere i topi? Ma i topi, ripeto, sono un aspetto di un'azione di corpo a corpo sulla città, di manutenzione urbana, di pulizia, di presenza sul territorio. Però attenzione, perché queste cose sono cose che costano, e oggi il bilancio del Comune di Roma è un qualche cosa di amorfo, ha una spesa corrente che ha le stelle. D'accordo, ma i topi vanno battuti, diciamo, non c'è dubbio. Se mai fosse sindaco, si impegna a battere i topi? Ci mancherebbe, certamente sì. Cosa farebbe come prima cosa se fosse sindaco? Le faccio già vincere le primarie. Se fosse sindaco... Guardi, sono tante. Una. Però la prima cosa è la lotta alla corruzione che pervade l'amministrazione. Mm. Ci sono le parole del prefetto Tronca che sono eloquenti. Cioè, pervade tuttora. L'amministrazione, dice Tronca, è paralizzata per la paura delle inchieste per quanto riguarda i dipendenti seri. E ci sono, secondo i rapporti che poi sono stati resi pubblici nel periodo di Mafia Capitale, delle zone grigie ancora di infedeltà che vanno superate. Senta, ma Olimpiadi sì o no? Le Olimpiadi sì, ma guardando a ovest di Roma, cioè al modello di Barcellona, all'esperienza di Barcellona e non a quella di Atene. Senta, ma al di là delle primarie, dopo l'esperienza di Marino, il PD ha qualche possibilità di vincere a Roma? Ce l'ha se fa il suo mestiere, se fa il PD come lo abbiamo conosciuto nel 2009, cioè una forza civica di centrosinistra con un profilo ideale e programmatico chiaro, e se non è un aggregato di correnti, di conventi. Insomma, c'è molto da lavorare. Se non strizza l'occhio a cose che con noi non c'entrano francamente, cioè Verdini. Come Verdini. Ah, vabbè. Grazie, auguri. Grazie. I do not love Brussels. I love Britain. Il referendum con cui i britannici decideranno se rimanere nell'Unione Europea oppure no si terrà il prossimo 23 giugno. Metà della popolazione britannica è a favore dell'uscita dall'Europa. Il sindaco di Londra, il conservatore Boris Johnson, si schiera per l'uscita dall'Europa. Cameron ha ottenuto uno status specifico per la Gran Bretagna e sosterrà la permanenza in Europa. La questione è se saremo più sicuri, forti e ricchi lavorando con un'Europa riformata o da soli. Ambasciatore Sergio Romano, l'Inghilterra si prepara al referendum sul Brexit. Qualcuno dice che stiamo entrando in un'epoca di genuina incertezza, lo pensa anche lei? Lo diceva Keynes, e Keynes aveva spesso ragione, quindi credo sì che effettivamente quello sia il problema, anche perché l'uscita sarà terribilmente complicata. Non bisogna dimenticare, per esempio, che la politica estera commerciale dell'Unione Europea è fatta dalla Commissione di Bruxelles, quindi noi abbiamo probabilmente alcune dozzine di trattati commerciali che sono stati negoziati dalla Commissione di Bruxelles e che la Gran Bretagna sino a oggi deve osservare, perché e quindi fanno parte, si vedrà. E quindi tutto andrà rinegoziato. Ma per lei la parola probabilmente la userebbe di più per il sì o per il no? Vedi, queste faccende, noi siamo sempre in qualche modo compromessi, condizionati da ciò che vorremmo che accadesse. Esatto. Quindi io ho l'impressione che direi alla sua domanda probabilmente sì. Senta, il premier David Cameron, dopo una straordinaria vittoria elettorale, si gioca la carriera su questo referendum. Secondo lei ha fatto male i calcoli allora? Ma non lo so, voglio dire, a un certo punto credo che abbia veramente intercettato dei malumori, un malcontento che stavano in qualche modo pregiudicando l'unità del partito conservatore. Credo che lui abbia soprattutto agito come il protettore di un partito che è il suo partito e da cui in qualche modo dipende anche la stabilità della Gran Bretagna. Quindi più come un'ottica interna, diciamo. Come un'ottica interna al partito conservatore. Infatti il sindaco di Londra, Johnson, si è schierato per l'uscita dall'Unione, cambiando in qualche modo i giochi del Premier. L'altra faccia di questa lotta. Sì, anche se il giorno dopo ha fatto un mezzo passo indietro, perché in qualche modo si è reso conto che affermare l'utilità, l'opportunità della Gran Bretagna sarebbe stato pregiudiziale. Ecco, è curioso che il capo della Scozia, che ha vinto il referendum per abbandonare la Gran Bretagna, invece abbia detto di votare sì. Come mai? Ma perché temono di essere impopolari se contribuiscono, concorrono all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In un certo senso non è una posizione molto diversa da quella di molti europei, i quali vogliono che la Gran Bretagna se ne vada, ma non vogliono apparirne responsabili. E in questo caso per la Scozia è importante non apparire responsabile della fine di uno Stato. Ecco. Sul Financial Times l'altro ieri è apparso un commento che titolava così: l'Europa è entrata nell'era della sua disintegrazione. È uno scenario reale o troppo fosco? La parola disintegrazione naturalmente ha un connotato negativo. Se lei mi avesse chiesto l'Europa è entrata nell'era del suo ridimensionamento o nella ricerca di una dimensione più conforme ai suoi obiettivi migliori, io le avrei detto sì, che in un certo senso si apre adesso un orizzonte, una prospettiva completamente diversa. Quindi valutare gli aspetti negativi dell'uscita d'Inghilterra dall'Europa l'abbiamo fatto, però potrebbe essere anche un'opportunità, secondo certo. quello che dice lei, per farla ripartire. Certamente, perché noi abbiamo constatato con questa vicenda inglese, del resto lo sapevamo già da molto tempo, che con la Gran Bretagna il cammino verso l'Europa è inevitabilmente verso un'Europa minore, verso un'Europa che non impedirà mai alla Gran Bretagna di avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti, con i paesi del Commonwealth, e quindi rappresenterà sempre un freno. Se noi vogliamo che questo freno venga eliminato, dobbiamo immaginare un'Europa senza con una composizione diversa. Quindi Renzi, che ha fatto sponda con Cameron, non rischia di essere spiazzato da questa eventuale uscita dall'Europa? Sì, non so, anche in quel caso non so se si trattasse piuttosto di tattica o di sostanza. Ah. Renzi in questo momento non sta percorrendo una strada europea decifrabile, facilmente decifrabile. Detto questo, nessuno evidentemente vuole apparire responsabile dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Ecco, le vorrei fare un'ultima domanda. Brexit e la crisi dei rifugiati, che sembra di aver distrutto ogni sentimento di solidarietà tra gli Stati, possono essere due facce di una stessa medaglia? Sono due facce di una stessa medaglia, sono due aspetti di uno stesso fenomeno. E il fenomeno è la mancanza in una parte consistente, importante, dell'Unione Europea, del sentimento di un destino. Non hanno più la sensazione di stare lavorando insieme per qualche cosa che li concerne tutti. E allora stanno tutti in qualche modo giocando al ribasso. Vogliono tutti l'Unione, quella parte di Unione Europea che conviene a ciascuno. Ecco, ma Mario, secondo te, Brexit sì o Brexit no? Testa a testa, testa naturalmente, a testa. E soprattutto conseguenza già evidente adesso che si è aperta la fase dell'Europa alla carte, cioè ognuno se la fa come comunque vuole. Comunque interessante il fatto che il capo della Scozia, che ha vinto il referendum per staccarsi dalla Gran Bretagna, invece voglia l'Europa. Beh, sai, loro sono così gli scozzesi, ma presente perché c'è una piccola... grande partita di poker. C'è un piccolo dettaglio: gli scozzesi sono noti per non essere, per avere il braccino corto, diciamo. Quindi hanno capito che il Brexit costa, quindi si stanno premunendo. Infatti, quando proposero il referendum per uscire, no? Anzi, per staccarsi, per avere l'indipendenza e l'autonomia, e loro si guardarono bene dal dire che non volevano più la sterlina, la volevano mantenere. Certo. Quindi siamo alla replica di quel film. Ecco, Pietrangelo, ma la nostra tradizione una tradizione ambigua nei confronti degli inglesi, no? Sono poco affidati, cioè la vogliono tutta, sempre, loro. Beh, gli inglesi sono inglesi, a differenza di altre entità, diciamo, imperiali, quali può essere stata nella storia l'Ispanida, quindi la Spagna, oppure la Russia, o perfino la stessa America, e il modello ovviamente è Roma. Loro non hanno mai coltivato il principio fondante imperiale della universalità, cioè di un modello che potesse contenere tutte le storie. Loro sono profondamente inglesi e hanno un rapporto, oserei dire, razzista nell'eufemismo fino a... Insomma, cercano quel piccolo inglesino che c'è in ognuno. No, puntano su quello. Magari puntano sulla caricatura dell'inglesino, per cui per esempio noi per loro... E qui Montesano fu fondamentale, siamo soltanto pittoreschi. Però noi abbiamo sentito anche, abbiamo il professor Luigi Zingales, che è un economista, professore di finanza, docente all'Università di Chicago. Ecco, professor Zingales, che cosa significherebbe per il business britannico un'eventuale uscita dall'Europa? Innanzitutto una fase di incertezza. Non è tanto l'uscita dall'Europa quanto cosa succede dopo. Se l'uscita dall'Europa significa raggiungere un modello norvegese in cui il Regno Unito non è nell'Unione Europea, però ha degli accordi molto simili, questo non cambia drammaticamente. È per l'Europa? Per l'Europa, secondo me, è un costo molto elevato da due punti di vista. Il primo, che perde una bilancia di potere, diciamo, l'Europa diventa sempre più germanocentrica. Il secondo è che dimostra che l'idea della inarrestabilità dell'Europa non vale. Però non sarebbe primo. Non sarebbe anche in qualche modo la fine di un equivoco? Beh, quale equivoco? No, un po' dentro, un po' fuori. Ma il Regno Unito vuole stare dentro un'Europa che sia un mercato, non vuole stare dentro un'Europa che sia uno Stato centralizzato, soprattutto governato da franco-tedeschi. Ecco, però, diciamo... Certo, però in fondo gli inglesi hanno già un'altra moneta e il concerto con le altre banche centrali resta. Che cosa cambierebbe in concreto per loro? Beh, innanzitutto è sempre più difficile pensare che Londra possa essere la capitale europea della finanza o addirittura mondiale se il Regno Unito rimane fuori dall'Europa. Certo. Ecco, ma qual è al momento la strategia del governatore della Banca d'Inghilterra? Del governatore della Banca d'Inghilterra, sì, o sì, del primo ministro? No, del primo ministro, il primo ministro l'ha fatta, il suo dado l'ha giocato, si è giocato, diciamo, tutte le carte e spera di vincere. Ma il governatore della Banca d'Inghilterra lo segue perfettamente? Io penso di sì. Sarebbe difficile per lui governare con una situazione completa di incertezza d'uscita. Quindi i governatori centrali sono sempre a favore della stabilità, della continuazione, perché l'incertezza è un pericolo. Senta, ma Cameron ha fatto un azzardo molto forte, secondo lei? Ma secondo me è stato un rischio calcolato. Il Partito Conservatore è molto diviso in Inghilterra su questa questione e quindi era difficile per lui governare senza risolvere questo problema. Ma quanto l'ha fatto? Certo. L'ha fatto lasciando scegliere gli elettori invece che farlo all'interno del partito. Una scelta anche giusta, secondo me. Ma quanto è preoccupante per gli equilibri della moneta unica invece questo referendum? Se è preoccupante. È preoccupante perché è un altro segno in una direzione negativa. Cioè, se tutto il resto andasse bene, questo da solo non farebbe la differenza. Ho capito. Invece, purtroppo, è uno dei tanti focolai di tensione che c'è nell'area dell'euro. Quindi, professor Zingales, il Brexit potrebbe diventare un macigno, ancora un ulteriore macigno sul ciclo economico? Sicuramente. E ci sono stime credibili sugli effetti del Brexit sull'economia europea? No. Perché tutto dipende da che cosa succederà, dalle aspettative, da una serie di cose molto complicate su cui non c'è storia. Troppe varianti. Da vedere, certo. Troppe varianti. Senta, ma è troppo tardi secondo lei per andare verso gli Stati Uniti d'Europa? Ma chi è che vuole in questo momento gli Stati Uniti d'Europa? Mi sembra che nessun paese li voglia veramente. Ma è anche vero che quasi nessuno sa esattamente cosa vuole. Sicuramente, ma direi che se oggi facessimo un referendum nei principali paesi europei, vogliamo cedere maggiore sovranità all'Europa, direi che questo referendum perderebbe certo dappertutto. Senta, professor Zingales, se faccio uno scenario: Trump vince in America, il Brexit vince nel Regno Unito, Boris Johnson scala il Partito Conservatore, comincia una nuova era? Guardi, sicuramente comincia una nuova era, però secondo me la nuova era è già cominciata, nel senso che anche se Trump non vince in America, anche se Brexit non succede, il fatto stesso che Trump prenda così tanti voti, il fatto stesso che si discuta di Brexit, è indicativo dei problemi di fondo che non cominciano, non finiscono con Trump o con Boris Johnson. Senta, ma per l'Italia di Renzi, che ha puntato molto su Cameron, sarebbe il fallimento di una strategia all'uscita dall'Europa? Sarebbe sicuramente la perdita di un alleato importante. Come le dico, senza l'Inghilterra, l'Europa diventa sempre più un una dominazione tedesca. E quindi Renzi non avrebbe più nessun elemento di contropotere, diciamo così. Sì, no, non che l'abbia usato particolarmente, no. Però diciamo che diventerebbe ancora peggio. Ecco, ma un'ultima cosa, professore, vista da Chicago, dove lei è, l'Italia di Renzi di oggi, che effetto fa? Fa un effetto di un paese che sta cercando di risollevarsi, ma fa enorme fatica e non sembra riuscirci. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, Londra potrebbe non essere più una terra promessa dopo questo referendum. Diciamo che potrebbe cambiare di parecchio lo scenario. Naturalmente tutti fanno i conti dimenticando la grande forza che cambia la storia, cioè la demografia. E io penso che questa sarà invece il fattore decisivo. Cioè, demografia volta. Intendi le migrazioni che danno le carte nei, e poi nei paesi. L'invecchiamento dell'Occidente, Regno Unito compreso. Loro hanno comunque una popolazione vecchia, hanno bisogno di importare forza lavoro, in particolare forza lavoro molto qualificata e non solo, naturalmente, e con questo dovranno fare i conti. Quindi anche, diciamo, le politiche attuali di chiusura in realtà poi dovranno fare i conti con, insomma, questa cosa. Comunque le classi dirigenti sono abbastanza incerte, non sanno che fare. Il referendum è un ridare il potere al popolo in modo definitivo. Pietrangelo, dovendo credere alla formula del popolo sovrano. No, però insomma è quello che ovviamente... è quello che sta capitando, perché si dice che anche Svezia e Danimarca dopo la Gran Bretagna potrebbero. Cioè, sembra che nessuno sappia veramente cosa fare. No, però è la realtà a fare quello che nessuno sa fare. Appunto, il referendum, ragione, sono la realtà. Ma c'è ben più, ha ragione Mario quando la fa appello alla demografia e all'invecchiamento di questo nostro continente, di conseguenza anche alle delle istituzioni di questo continente. Fa ridere già l'idea d'Europa. Obiettivamente nessuno ha un indirizzo, un campanello dove suonare e siamo fermi a Kissinger, no? Che diceva qual è il numero di telefono dell'Europa. Caterina Soffici, giornalista, autrice per Feltrinelli di Italia Yes, Italia No. Che cosa capisci del nostro paese quando vai a vivere a Londra? Ecco, tu fai parte dei 250.000 italiani che vivono a Londra. Che cosa si capisce dell'Italia quando si va a vivere a Londra? Siamo molto più di 250.000, perché siamo più di 500.000, anzi, secondo il consolato, siamo per ogni italiano che si registra ce ne sono due o tre che non si registrano. Perfetto. 250.000 sono quelli registrati. Bene. Quindi pensa te quanti siamo. Tanti. Cosa si capisce dell'Italia vedendola da qua? È lunghissimo. Vabbè, ma in sintesi? In sintesi capisci che l'Italia sarebbe un paese magnifico, ma se fosse gestito da gente dagli inglesi, ho capito, va bene. Ma nel tuo libro dici a Londra si vive peggio ma si sta meglio, vuol dire questo sostanzialmente? Sì, voglio dire questo, voglio dire che tutti gli italiani che vengono qua alla fine vengono a cercare qualcosa che non trovano più in Italia, cioè la possibilità di lavorare, di fare delle cose, di costruirsi un futuro secondo delle regole precise. Poi saranno anche regole che possono non piacere, quelle inglesi, ci sono un sacco di cose che non vanno bene, nessuno è un esterofilo, certo. Anzi, tutti gli italiani che sono qua vorrebbero solo poter tornare, molti diciamo così, vorrebbero solo poter tornare in Italia e fare le stesse cose che riescono a far qua, a cominciare da chi apre una piccola aziendina. Certo, poter lavorare con facilità. Ecco. Con facilità, è per quello che dicevo, gestiti dagli inglesi, perché gli inglesi sono comunque un popolo organizzato. Ecco, ma nel caso di un successo del Brexit, cosa cambierebbe per gli italiani? Qualcosa cambierebbe o no? Allora, questo è tutto da capire, nel senso nessuno ha ancora chiaro uno scenario di cosa succederebbe per gli stranieri che abitano qua. Ci sono stati fatti vari studi, ma vengono fatti più che altro dal punto di vista delle conseguenze economiche, certo, diciamo, a livello macroeconomico, ma sulle specifico non è ben chiaro. Sulla propria qualità della vita non si sa bene. Ma ecco. non è chiaro, perché non è che io non credo che loro abbiano idea, anche chi pensa che chi fa campagna per il Brexit non fa campagna perché vuole veramente lasciare l'Europa, capito? Perché loro comunque pensano già di essere fuori dall'Europa. Questo secondo me è una cosa che in Italia... Ma insomma sono un po' coi piedi in due staffe, se vogliamo essere chiari. Sono molto con i piedi due staffe. Te pensa che comunque, cioè, tutto il buono dell'essere dentro la prendono, e poi anche il buono di tenersi la moneta. Il buono di tenersi la moneta, il buono di essere dentro. Loro dicono qua, c'è una battuta che è una battuta classica degli inglesi, quando dicono nebbia sulla, sulla manica, il continente è isolato, no? Cioè loro vedono l'Europa, cioè, ci sono loro e l'Europa è un'altra cosa. Certo. Quando te vai in vacanza e ti dicono ah, ma vai in Europa in vacanza? Certo. Cioè, come pensano, sì, di ma anche, loro anche, anche in Sicilia ti chiedono se vai in continente quando anche vai in Italia. Sicilia, ma infatti, ecco, questa è una cosa interessante. Anche in Sicilia e in Sardegna, sì, sono due isole, e se ci pensi sono due isole che vivono dentro l'Italia, ma hanno, sono regioni a statuto speciale. Certo. Quindi senti, loro hanno delle caratteristiche, anche dei privilegi, tra virgolette, che gli inglesi pretendono di avere, comunque gli sono stati concessi dentro l'Europa. Certo, una prerogativa degli isolani. Quella cosa degli isolani, bravo. Questa è quello che... Senti, ma nel tuo libro precedente, Ma le donne no, come si vive nel paese più maschilista d'Europa, tu sostieni che da noi non solo le donne non hanno fatto progressi, ma addirittura hanno iniziato a arretrare. In che senso? Perché lo dici? Guarda, quello era un libro che ho scritto nel 2010. Eravamo Hai cambiato idea? No, non ho cambiato idea, non ho cambiato idea. Lo dico perché lì era nel pieno della questione delle oggettine, delle donne, sì, vabbè, insomma, delle ministre di Berlusconi, insomma, c'era una situazione un po' particolare. Adesso bisognerebbe parlare delle ministre di Renzi. Scusa? Adesso bisognerebbe parlare delle ministre di Renzi, sì. Infatti, ma certi dati sono rimasti assolutamente uguali. E quando io dico che le donne in Italia stanno un po' regredendo è perché certe cose si danno per scontate, è come se non combattessero più per difendere certe cose. Ecco, ma in che cosa è diversa la situazione delle donne in Inghilterra, per esempio, all'interno del mercato del lavoro? La cosa in Inghilterra assolutamente visibilmente diversa, diversa è la difesa dei diritti. Allora, se una donna viene discriminata in Italia sul lavoro, parlo anche semplicemente delle differenze salariali, no? Sì. Le donne vengono pagate meno per fare lo stesso lavoro anche in Inghilterra, non è che non succede in Inghilterra, sì, questa cosa. Ma in Italia si prende un po' come una cosa, vabbè, è così, no? Sì, ogni tanto c'è e una invece protesta, lì cosa capita? Sul giornale. Qui, quando finisce sul giornale, non solo vengono risarcite, ma vengono risarcite in maniera cospicua, vengono reintegrate. Però, tornando alla vita degli italiani a Londra, tu dici, qui si può finalmente uscire dall'emergenza continua, qui si può vivere normalmente. Cioè, mi fai un esempio per chiudere? Che incarni bene questa tua idea? Faccio un esempio. Rifare la patente, rifare un documento. Basta andare online, riempire un formulario, pagare con una carta di credito e dopo una settimana ti arriva la patente nuova a casa. Idem per le tasse. Quindi burocrazia semplificata, diciamo una vita più semplice dal punto di vista del rapporto con lo Stato. Da questo punto di vista qua è tutto semplicissimo. E invece a te cosa manca proprio dell'Italia? Bene. Comunque qua, come dico io, si vive bene, ma mancano tante cose. Sei comunque un espatriato in una grande città internazionale, per cui non è Londra, non è un paesino del Galles. Certo che no, ma un'ultimissima cosa, ma si smette a un certo punto di essere emigranti a Londra oppure si è sempre degli espatriati? Allora, a Londra, come le grandi città internazionali, come credo anche a New York, come questi posti, non sei veramente mai un emigrante, cioè sei sempre un parte di una comunità cosmopolita di espatriati, la metterei così, cioè non è l'emigrante con la valigia, no, di ma certo, arriva, no? Certo, ecco, questa immagine no, però non sei mai cittadino di quel paese, no? Cioè sei sempre comunque uno straniero in mezzo a tantissimi stranieri, e dove alla fine in certi quartieri, in certe zone di Londra e in certe situazioni di Londra, anche lavorative, gli inglesi sono una minoranza, certo, no? Oscar dalla provincia di Salerno ci dice, ci scrive: mi dispiace sentire che non ci sia spazio per gli Stati Uniti d'Europa e che si stia sgretolando un sogno. Beh, quindi un sentimento che alla fine, poi, questa Europa che nessuno sa bene cos'è, nel cuore di qualcuno ci sta. Però è interessante quello che diceva prima lei che in fondo la Gran Bretagna come la Sicilia, come la Sardegna, cioè le isole la pensano sì, tutte in un certo vorrei modo. Segnalare un bellissimo libro di Stefano Malatesta, Il cane che andava per mare, il racconto degli eccentrici di Sicilia, dove spiega bene ed esplicita questa tesi, cioè che l'eccentricità è tipica degli isolani. Sai che c'è un detto in Sardegna? A Filicudi è pieno di eccentrici. C'è un detto sardo che dice: Kentu gonkeas, kentu berrittas, cento teste, cento capelli. È tradotto in inglese? È un'altra roba. Gli inglesi sono diversi, però certo sì, sono isolani. L'isola d'Inghilterra. Chiudi con una canzone, Mario. Vabbè, è una voce meravigliosa. Annie Lennox, è un duo che ha fatto la storia del pop inglese mondiale, gli Eurythmics. I Save the World Today. Monday finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You're bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Mix 24. Oggi che sentiamo, Pietrangelo? Arriva. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look bad. She can take the dark out of the nighttime. Paint the daytime black. You may start outstanding. Proud to steal her anything she sees. You may start outstanding. E allora esco dalla metropolitana oggi a Termini e mi accorgo di un uomo appoggiato al bancone di un bar, proprio lì alla stazione, tutto intorno il trafficare del giorno al mattino, e a un certo punto è arrivata una lei e lui, che non la conosceva, si è avvicinato e le ha detto: ti ho visto bellezza, adesso tu mi appartieni, chiunque tu stia aspettando, anche a non dover succedere mai più. E insomma, è successo che se ne sono andati via insieme e l'aria del giorno se n'è stata in ginocchio per vedere come andava a finire, proprio come per sbirciare attraverso il buco della serratura. E ha telefonato stamattina Hemingway e ha detto: ha ragione Duremat, greco, siamo cerca lì, eh? Greca. Vabbè. Sono come gli annunci sui giornali spagnoli, Chico Busca Chica. Alessandro che ci dice che leggiamo solo quello che ci piace. Beh, ci scrivesse delle cose belle, Alessandro, interessanti, noi le leggeremo subito, soprattutto le firmasse. Allora vai con la bolla, Mario. Sì. Beh, questo è un brano leggendario, More Than a Feeling, di Boston. Potessimo occuparci solo di musica. Ma ti piacerebbe? Eh? Sì. Va bene, programma musicale per Mario? No, non lo posso fare, quindi non me lo posso permettere. È come quando chiedevano a Flaiano: tu sei comunista? E lui rispondeva: non me lo posso permettere. Allora, ci sono un paio di cose. Però posso dire una roba? Dilla. Tu hai letto la questione libica sul Corriere stamattina? Beh, certo, questa diga di Mosul che diventa il centro di tutto, no? E poi, che vanno i servizi segreti, vanno altri 100. Allora, cioè non si capisce chi fa la guerra in Libia. No, non si capisce chi fa la guerra. Allora, cioè i servizi segreti comandano l'esercito. Com'è esatto, ma questa cosa qua è assolutamente singolare. Cioè, è, per intenderci, per dare un metro di paragone, è come se l'esercito americano si facesse guidare dalla CIA. Perché non lo sai che è così? No, non è così. Non è così. È tanto non è così che infatti i soldati americani non hanno l'impunità per i crimini di guerra. E se vengono beccati vengono processati. I nostri invece dovrebbero avere l'impunità per i reati commessi, da quel che leggo. La cosa crea molte perplessità perché esiste il diritto internazionale di guerra, esiste la Convenzione di Ginevra, tanto per dirne una, e i nostri dovrebbero essere tenuti a rispettarla. Altro aspetto, secondo me, incredibile è il dato parlamentare. Cioè, il Parlamento dovrebbe essere informato attraverso il COPASIR, perché trattasi di servizi segreti, con informazioni scritte e secretate. Scusate, ma l'opinione pubblica dov'è in questo caso? Trovo questa cosa abbastanza inaudita. Ne parleremo, Mario. Lunedì ne parleremo. Dicevi, Pietrangelo? No, l'esempio che faceva Mario sull'esercito americano. L'esercito americano fa riferimento a uno Stato sovrano. L'Italia non è uno Stato sovrano. È una cosa. Scusa, non è più un'operazione della difesa, allora dobbiamo dirlo. È un'operazione di Palazzo Chigi con i servizi segreti. Cioè, è come se Obama, appunto, avesse fatto la sua guerra tramite la CIA. Palazzo Chigi si diverte con le cirinnaie. Faccio la bolla e la bolla è sul Credit Suisse. La faccio veloce, che ha tirato fuori uno studio che si chiama Close to the Edge sull'eurozona. È micidiale, perché loro dicono, naturalmente è tutto da provare dai fatti che verranno, che se l'Europa va in recessione ci sarà il break up, cioè la rottura dell'eurozona. Lo segnalo perché gli svizzeri, infatti, di banche, un po' ne abbiamo parlato, no, delle possibilità gli svizzeri rischio. Nel corso della storia qualcosa l'hanno azzeccata, qualcos'altro no, quindi bisogna stare attenti. Salamino. Fischi per fiaschi, razzi per ramorazzi, meloni per milioni e lampi per labbioni. Altro che guerra in Libia. Il piccolo Matteo, e non quello di Palazzo Chigi, il suo clone, per tramite dei genitori ha chiesto il brevetto della parola da lui inventata, e cioè petaloso, su cui l'Accademia della Crusca, e sottolineo Crusca, ha dato il placet. Beati i tempi del cacao meravigliao. Beati quei tempi, perché almeno non c'era un presidente del Consiglio a rivendicare con orgoglio il genio nazionale. Era genio vero quello del cacao meravigliao. E comunque, cosa incredibile, incredibilissima, il padre di Matteo, e non il padre di Renzi, a cui interessano solo gli outlet, quindi non certo le farfalline, paroline, insomma quelle cose lì. Metto la canzone quella. Allora, il padre di Matteo ha detto: il vero petaloso, l'originale, è solo uno. E quindi sempre fischi per fiaschi, razzi per ramorazzi. Tutti ormai credono di essere dei Nino Frassica, che è l'unico genio originale della disarticolazione del linguaggio. Oh, se ci fossero, diciamolo, se ci fossero meno maestre finto bionde e tatuate, se ce ne fossero meno, e se nelle scuole tornassero le suore baffute, insomma, il Matteo, e non solo il bambino, ma anche il Matteo di Palazzo Chigi, che ha cavalcato il petaloso, sarebbero da mettere tutti in ginocchio sui ceci, per non dire della Crusca. La Crusca dovrebbe essere messa a pane e acqua, oppuramente, si può dire oppuramente aggiornare con invenzioni linguistiche appropriate. Giovanni, per esempio, tu hai una parola da brevettare? Ah, io vorrei brevettare la parola televisionista. Televisionista, questa me la segno. Mario, tu devi brevettare una parola? No. Nessuna parola. No. Però io adesso vi faccio ascoltare là dove il genio arriva, cioè Roberto Lipari, un grandissimo Roberto Lipari, fa una sua richiesta all'Accademia della Crusca. Ascoltiamo. L'agnuso è una parola da mettere, perché l'agnuso in Sicilia, l'agnuso non è pigro, è di più, l'agnuso è proprio un omatopeco, l'agnuso, proprio che la caccia si dia vuol dire proprio che le cose non ti vanno, te la buttano, un'altra cosa che a buttare, l'agnosia, si dia, sono tutte parole proprio perfette, perché noi siciliani lo siamo spesso. Per gli amici di Catania c'è spacchiuso, perché per loro una cosa è troppo spacchiusa quando è troppo, non lo so, bella, diciamo quindi dico sia palermitano sia catanese, voi state pensando spite, mettere pure spite vuol dire non solo, ecco, per esempio, mi hanno rubato il motorino e spite a macchina, cioè spite vuol dire mettere spite. Quanto vi levate è una frase che noi utilizziamo per dire in Italia non sarebbe, qual è la differenza tra voi due? Come sono due fratelli, dici io ho 8 anni, ho 5 anni. Quanto vi levate? Io ci ho messo degli anni in Sicilia per capire cosa voleva ora, dire. Per esempio, poi c'è la locuzione delle locuzioni che dobbiamo richiedere alla Crusca ed è minni stai un futtenno. Per cui il signor Renzi, se solo sapesse. E quando ce ne stiamo fottendo di tutte le sue invenzioni paroliberiste, avrebbe già la percezione dell'infinito. Dicevi Mario, no, per io chiudere... per par condicio isolana a questo punto vorrei che fosse registrata la locuzione Geseus Afrori, che cioè vuol dire... cioè ridì? Geseus Afroris sarebbe Geseus Afroris, cioè non abbiamo neanche i fiori sostanzialmente, non siamo dipinti i fiori, una cosa del genere. I sardi sono come gli inglesi, non hanno il dono dell'universalità, parlano e nessuno le capisce. È una lingua neolatina. 800 24 00 24 numero verde 349 238 666 l'SMS pubblicità. Mix 24. No, guida bene lei. Oh, ma che sei matto, mi dai ancora del lei? E dammi del tuo, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Ah, grazie. Panna più forte, spingo. Oh! Ah, guardasi se scassa. Vai, cavolina! Il sorpasso, un film indimenticabile di Dino Risi, due attori straordinari. Gassman e Trentignan, è un'auto entrata nella storia, la Giulietta Spider disegnata da Pininfarina. Pininfarina come Giugiaro, Bertone e Zagato, sono loro i grandi carrozzieri italiani a creare i miti dell'automobilismo mondiale, le Ferrari, le Maserati, le Aston Martin. Sculture in movimento, prototipi che hanno meritato un posto al MoMA di New York, testimoni, protagonisti, segreti di uomini e auto da leggenda. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, c'è una bolla, c'è una musica, però voglio dire un'altra cosa su questa questione del nostro intervento. Perché siamo in Libia? Allora, qua la storia è molto semplice. Renzi è come se avesse firmato, per essere chiari, un executive order da presidente di guerra, da commander in chief all'americana. Questa cosa qua è interessante dal punto di vista dell'interpretazione del nostro stato. Siamo in uno stato di emergenza, siamo in uno stato di eccezione, siamo in uno stato di guerra. Cioè, fatemi capire, dov'è il Parlamento in questo caso? Ora, che lo dica io, che ovviamente non sono certamente, non ho pregiudizi nei confronti di Renzi e sono anche per l'intervento, cioè suscita dei fortissimi dubbi. Cioè la modalità dell'intervento non la decisione, la catena di comando, di fatto l'ordine esecutivo del Presidente del Consiglio in un paese serio. Bisognerebbe sentire la Pinotti cosa dice. In un paese, certo, mi piacerebbe proprio sentirlo. Noi sentiremo la Pinotti. In un paese serio, cosa che l'Italia non è, una vicenda del genere avrebbe sollevato un grosso dibattito parlamentare. Vuol dire che siamo in un paese serio. Ah, lo spero vivamente. Speriamo. Vuoi anche la bolla? Te la faccio al volo? 10 secondi. Allora, pizza e formaggio, Domino's Pizza, che è un gigante della pizza mondiale, ha profitti record più 17,8%. E sapete perché? Perché non è pizza italiana? No, perché è calato il prezzo del formaggio, miscredenti. Però hai capito il problema di ieri di tutelare il Made in Italy? Mo ci mangiamo pure la pizza francese americana. Sta già a Milano. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, novembre 2015. Migliorare l'aderenza e i risultati clinici delle terapie farmacologiche e al contempo contenerne i costi. Linee guide dell'American College of Physicians. Le terapie farmacologiche costituiscono, grosso modo, il 10% di tutti i costi della salute. E allora il problema è quello di cercare di contenere il più possibile questi costi. In epoca di vacche magre come l'attuale. E allora una via possibile è l'utilizzo dei cosiddetti farmaci generici, cioè quelli che non hanno il nome commerciale e siccome non hanno dovuto soffrire di tutti i costi determinati dalla sperimentazione e dalla successiva introduzione in commercio, costano molto di meno rispetto al partner farmaco brandizzato, come si dice. E allora che caratteristiche hanno questi farmaci generici? Hanno la stessa bioequivalenza, cioè sostanzialmente hanno le stesse componenti dentro, ma non è detto, perché non è stato possibile e non è possibile in genere studiarlo, non hanno la stessa equivalenza terapeutica, non lo sappiamo perlomeno, e però la gran parte delle evidenze mostra che in genere non ci sono differenze nei risultati clinici dell'utilizzare i farmaci generici rispetto ai farmaci brandizzati. Ci sono però un mucchio di barriere all'uso. Pensate che solo negli Stati Uniti 4 su 10 medici dicono che prescrivono il farmaco con il nome commerciale, quello brandizzato, perché i pazienti glielo richiedono e non si oppongono. Non solo, ma il 25% di questi medici statunitensi sono in dubbio sulla vera efficacia del farmaco generico e non lo danno a se medesimi o alla loro famiglia. Quindi è evidente che questo mondo del farmaco generico è un mondo in espansione. L'articolo in questione suggerisce di prescrivere quando è possibile i farmaci generici, perché comunque le evidenze sono favorevoli e certamente i costi vengono abbattuti. E per chiudere, Gloria Guerrera? Oggi ascoltiamo un altro addio di Toquinho, Ornella Vanoni e Vinicius de Moraes, perché l'amore è un'allegria, poi un pianto e poi soltanto nostalgia. La separazione, solitudine.